e mi schernisci. Signor, all'innocente semplice principessa dona tutto il rigor dell'ire tue. No, Niceno, e folli ostinati rivali, che mi voglion rapir la sposa e il trono, l'orgoglio vo domar. La principessa, se ben semplice l'è, non è ancor stolta. Semplice e pazza fe, ch'io te la giuro. Se tale dunque sedotta, elle da miei rivali, e sopra d'essi scuoterò di rabbia. Quasi agitata l'anta ai fiati d'euro, egli negli avvampa.